Time Out di Luca Mastrantonio. Ultime gustose notizie dal mondo del cinema. Alla mostra di Venezia ci sarà uno spazio dedicato alla situazione comica e sbarcheranno persino i cinepanettoni, sì, quei grandi film che a Natale riempiono le casse delle case cinematografiche e che fanno storcere il naso ai critici più snob. E la Michelle Hunziker però ha detto qualche tempo fa che non vuole più fare cinepanettoni, solo teatro. La Ferilli invece, icona nazional popolare di sinistra, ha detto che è un'attrice più libera grazie ai cinepanettoni. Prossimamente, forse, a Napoli già si parla di un Natale in Sudafrica con Lavezzi e Belen Rodriguez. Il cinepanettone è ormai una metafora. Montezemolo, con Italia Futura, la sua fondazione, ha detto no alle elezioni, sarebbe un nuovo cinepanettone. Ma i cinepanettoni sono solo una liturgia natalizia, un rito familiare? Sono lo specchio del paese, lo specchio fedele, o sono la cafoneria al potere? Dobbiamo temere per Natale un vacanze a Monte Carlo sulla storia Fini Tulliani? Benvenuti a Time Out, io sono Luca Mastrantonio e anche questa mattina, come ogni sabato e domenica su Radio 24, ci prendiamo assieme una pausa di riflessione dal flusso di notizie che ci bombardano. Oggi parleremo dei cinepanettoni. I cinepanettoni arrivano a Venezia, dove i comici in genere non sono molto amati dai critici un po' snob, e cercheremo di capire se siamo di fronte a una svolta epocale, cercheremo di capire con quale criterio sono stati scelti alcuni film piuttosto che altri e se veramente Boldi & Company sono i nipotini di Totò. Noi non abbiamo pregiudizi nei confronti dei cinepanettoni, perché se piacciono al pubblico è giusto rispettarli, ma abbiamo paura che forse a consacrarli un po' troppo si possa arrivare a questo paradosso. Premio miglior perizoma non protagonista ad Alessia Merza per Panarea. Premio cinema impegnato a Boldi per il ruolo del magistrato Servillo in SPQR. Miglior fedifrago chiuso nudo fuori dal balcone a Christian De Sica in Natale sul Nilo. Premio gatta morta a Michelle Hunziker per Natale a Beverly Hills. Premio la parolaccia a Massimo Ghini in Natale a Beverly Hills. E quindi la situazione comica, la comicità da Totò ai giorni nostri sarà protagonista a Venezia. Uno scorre l'elenco dei nomi e si aspetta di trovarlo: Giovanni Veronesi, regista di Manuale d'amore, Genitori e figli. E invece non c'è a Venezia, ma è in collegamento con noi a Time Out. Buongiorno Giovanni Veronesi. Ciao, sono come Pupi Avati, non sono stato preso. Però Pupi Avati è di casa a Venezia. No, ma io non ho neanche proposto, il mio figlio è anche più celosi che... Sto per iniziarla adesso, quindi comunque non penso che mi avrebbero preso in considerazione, diciamoci la verità. Insomma, noi pensavamo veramente che quest'anno, sembra per molti colleghi e addetti ai lavori, sia un po' l'anno della laicizzazione della mostra, forse non tanto per i temi religiosi, ma per il confronto nei confronti della commedia all'italiana, che ha sempre vissuto anticamere e purgatori prima di venire consacrata o sdoganata, che dir si voglia. Comunque noi siamo rimasti sorpresi, perché lei è amatissimo dal pubblico, forse con i critici ha un rapporto un po' più conflittuale, vero? Lo dice la parola, sono critici quelli, c'è niente da fare, quindi criticano, io mi arrabbio. No, ma diciamo che ho scavallato in questi anni questo problema, quindi a questo punto sono più tranquillo. Leone d'oro si sta a vedere. Ma lei, c'è una soglia entro, perché poi in genere quando si rivaluta lo si dà in una età non certo tenera. No, lei no, c'è una quello soglia. L'ho già dichiarato, quello proprio davanti a dei ragazzini, ho detto la cosa peggiore è essere rivalutati, perché quando uno viene rivalutato da vecchio vuol dire che è stato svalutato prima. Allora vuol dire che in questo momento io sono svalutato, allora mi arrabbio. No, io non voglio essere rivalutato, non voglio andare a prendere i premi da vecchio che non riesco a salire i gradini del palco, mi devono aiutare. E poi sono tanti i gradini in attesa del nuovo palazzo. Sì, no, infatti, che poi non riesco a tenere il leone in mano perché c'ho il Parkinson e trema tutto. No, questo non lo voglio fare. Ma insomma, ci sta descrivendo un po' di consegne che nella memoria ci vengono in mente, quasi leoni d'oro alla memoria. Qual è quello che più la colpì? La mummia, che lo zombie, visto che l'anno scorso ci fu Romero a Venezia a proposito di rivalutazioni in tarda età, qual è lo zombie che più la colpì? Beh, tanti, guarda, tutti quelli della commedia all'italiana sono stati rivalutati alla fine e gli hanno dato questi leoni tremanti. Ci dà un nome, così insomma aiutiamo gli ascoltatori. Ma guarda, non lo voglio, non voglio offendere nessuno, però diciamo che, non lo so, uno per tutti veramente, quando dettero a Villaggio il Leone d'Oro, quello fu commovente per me, perché mi domandavo, ha dovuto fare un film con Fellini brutto per prendere il Leone d'Oro, quando la sua geniale scoperta fu negli anni 70 Fantozzi. Certo. Fantozzi fu un personaggio. Allora io spero che quel Leone d'Oro abbia in gran parte dell'oro di cui è composto per Fantozzi, perché francamente aspettare di fare un film brutto con un grande maestro come Fellini, però era brutto il film, lo sanno tutti. Sono quelle leggi bastarde che ci sono nel mondo dell'arte, dove devi per forza consacrarti con qualcosa di già consacrato. Hai visto mai i punteggi che ci sono quando c'è la ginnastica artistica, oppure quando c'è il pattinaggio sul ghiaccio? Per entrare nei primi tre ci vogliono 10 anni di punteggi, quando magari 10 anni fa questi erano già bravissimi. Certo. Ci sono delle leggi veramente bastarde nei giudizi e nei punteggi. Ecco, io non ne voglio far parte. Okay, non voglio. No. Okay. Non vuole... lo tiro dietro, l'ho bene detto una volta. Ma la definizione che aleggerà la Laguna, anche un po' fuori stagione, di cinepanettone, perché si era provato con i cinecocomeri, ma d'estate evidentemente non va. Lei come, a volte gliel'avranno affibbiata, a volte le sue commedie romantiche, no. Ecco, lei come la vive questa definizione, che per alcuni è quasi un insulto? Guarda, io non mi hanno mai affibbiato cinepanettone perché non l'ho mai fatto. Certo. Però io penso che... per schernire, per diminuire, i giornalisti sono bravissimi. Per elogiare, per invece consacrare, sono molto puntigliosi, sono molto cardi di complimenti, e quindi alla fine è un mestiere facile, fino a che si spara addosso a delle cose facilmente attaccabili. A volte non solo i critici ma anche i colleghi. Ascoltiamo assieme una brevissima clip di quello che secondo noi può essere il grande anatema contro la commedia all'italiana. Noi italiani siamo fatti così, rossi, neri, alla fine tutti uguali. Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo, in un film d'Alberto Sordi? Magari. E allora Giovanni Veronesi ci aiuta a capire, è vero che questo in fondo è l'anatema del Papa, che sta girando appunto fin sul Papa di Moretti contro la commedia all'italiana? Beh, guarda, Moretti è il faro di tutti noi dagli anni 80 in poi, cioè Moretti è quello che riesce a ironizzare sul sacro, e quindi questo film penso che sarà un grande film, perché è riuscito a trovare veramente la chiave giusta, come quando Benigni fece La vita è bella, vita cioè bella. Riuscire a ironizzare su questi grandi temi. Lei è un soggetto per Moretti che vorrebbe proporgli? Noi in famiglia abbiamo già dato, sì, Carlo, con Sandro, certo. E quindi diciamo che con Moretti siamo a posto. Con Sandro, sì, ma lei, sì. Lei un qualcosa di più brioso, una commedia all'Alberto Sordi, anche solo per scherzo, per vedere come reagisce. Beh, io gliela direbbe una commedia all'Alberto Sordi. Con De Niro, guarda, adesso lo faccio con De Niro, a Moretti sarebbe di più. Quindi questo è un paragone importante. Noi ringraziamo Giovanni Veronesi per la simpatia. Grazie a voi. Per me la corazzata Potionkin è una cagata pazzesca! La situazione comica, la retrospettiva che la 67esima mostra del cinema di Venezia dedica al grande filone della comicità italiana, e siamo in linea con il situazionista dell'umorismo, della satira sociale, Paolo Villaggio, buongiorno. Beh, scusami, è situazionista? E prima domanda a bruciapelo. Se la posso dirlo io di essere un situazionista? Sì. Dico, buongiorno, lei cosa fa di mestiere? Beh. Il situazionista. E cosa vuol dire? Ecco, non lo so, e quindi sono in difficoltà, comunque lo dico. Benissimo. Me lo faccio mettere sul passaporto. Una domanda a bruciapelo inevitabile quando si parla di cinefilia o cinofilia, perché a volte sono anche i cani quelli che sì. Si portano al cinema. Se la corazzata Potionkin era una boiata pazzesca, i cinepanettoni, Villaggio, Vacanze di Natale, cosa sono? Ma io non è che li veda, sono dei film molto che fruttano molto denaro al distributore, al produttore, agli attori che partecipano. Beh, vedi, gli italiani vanno al cinema solo una volta con le famigliole a Natale. È garantito il divertimento e loro ci vanno. Essendo poi un momento difficile per tutti, e quindi hanno bisogno di situazioni comiche, cioè che possano alleviare il peso di una leggera depressione. Quindi cinepanettone al posto del Prozac per famiglia. Sì, esatto, sì. Ecco, la voglia di ridere, cioè la qualità a questo punto viene un po' trascurata, ecco. Ma sai, per qualità anche questo mito della qualità mi sembra che sia un'esigenza di questi intellettuali di sinistra. Preferiscono sopportare, come ho sopportato io da giovane, di Esire, di Dreyer e la corazzata mitica. Io sono andato al cinema con il primo Fantozzi al Festival di Mosca e il presentatore ha detto bellamente: adoro un omaggio ai nostri ospiti stranieri. Ho visto che i russi erano un pochettino lì sui blocchi di partenza per uscire. Ho detto: fermi tutti, ha urlato questo, perché aveva capito. E c'era il fuggi-fuggi generale. C'era, sì. Lei a Venezia torna, insomma, nel 92 ha ricevuto un Leone d'Oro alla carriera. Sì, e... il primo Leone d'Oro che è andato a un comico. Ecco, un comico, prima Giovanni Veronesi, che ricordava, come diceva, beh, come grande risarcimento per tutta l'attività grandissima di comico di Fantozzi, Paolo Villaggio l'ha ricevuto, però ha dovuto fare un film con Fellini, che certo ci sono mali peggiori, però diceva, sì, insomma, un film con il maestro già consacrato per venire consacrato. E diceva Giovanni Veronesi: è giusto questo Leone d'Oro, però è peccato che in fondo quell'oro appartiene più a Fantozzi forse che a Fellini. No, sicuramente a Fantozzi. Ero naturalmente condannato a essere un comico e quindi mai premiato. Dopo il film di Fellini, quello di Olmi, ho fatto la Vermüller, ho fatto Monicelli, ho preso tutto, cioè Davide Donatello, Leone d'Oro. E invece quest'anno a Venezia, almeno nell'immaginario collettivo, beh, insomma, alcuni comici, perché adesso andiamo un po' a leggere la lista e magari con Villaggio capiremo se c'è un ma guardi, disegno. La so già la lista. Mi sembra Abbatantuono, sia... Banfi, De Sica, Montesano, Pozzetto, Proietti, Verdone, Villaggio, mancano dei comici, per esempio il suo collega della Voce della Luna, Benigni, manca Albanese, anche altri nomi. Come mai, Villaggio, secondo lei mancano? Beh, lei lo sa meglio di me, non mi faccia dire cose che lei pensa perfettamente, lei lo sa, no? Beh, proviamo questo esperimento di telepatia, vediamo se effettivamente mi ha letto nel pensiero. Sì, lei mi legge nel pensiero. Lei mi legge nel pensiero. Guardi, Totò sarebbe venuto come comico, come grandissimo comico, pure Arpeppino De Filippo, perché avevano forse una maggiore modestia. Invece c'è la tendenza, soprattutto ai comici che hanno avuto molta fortuna, di sinistra, e quindi temono di, in qualche modo, di sporcarsi partecipando a delle ammucchiate di quel tipo. Quando dico che Tognazzi sarebbe venuto, dico che Tognazzi era un attore straordinario, anche un grande comico, ma non aveva assolutamente la voglia di togliersi dalla mischia. Stabilire un'equazione di questo tipo non ci vado, perché io sono un intellettuale di sinistra, Moretti, Metti, certo. Benigni anche. Sono un pochettino snob, ecco. Continuano ad essere snob. E lei prima ha citato Moretti, è celebre l'espressione, no, di Dino Risi. No, Moretti mi aveva chiamato per fare il portaborse. Ecco, io non l'ho potuto fare perché avevo un contratto in esclusiva con Gori. Mi dispiace molto, come non ho potuto fare... Che ruolo doveva avere nel portaborse? Quello che ha fatto Moretti, poi. Peccato, sì. Ringraziamo Paolo Villaggio di essere stato con noi e buona Venezia. Buon ritorno a Venezia. Grazie, caro. Arrivederci. Non so io perché è gentile, a Buzzicozza. Buzzicozza? Buzzicona cozza. Ha fatto una crasi? Una crasi? Ma questo è scappato, non mi sono accorto, ma è strano perché di solito fa nebbole. E per capire se dobbiamo preoccuparci di questa invasione di comicità persino dei cinepanettoni alla Laguna di Venezia, alla Mostra del Cinema, siamo in linea con Maria Rosa Mancuso. Buongiorno, Maria Rosa. Buongiorno. critico del Foglio, quest'anno è anche uscita una raccolta delle sue imperdibili recensioni, Nuovo Cinema Mancuso. Nel Nuovo Cinema Mancuso, i cinepanettoni vengono proiettati... Ma stanno diventando sempre più noiosi. Io amo la comicità, mi sembra che sia una delle belle cose per cui vale la pena di vivere, però francamente è sempre più difficile ridere con i cinepanettoni. Sono lenti, strano, perché poi si dice che in questo periodo la nostra soglia di attenzione diventa sempre più rapida, siamo abituati a fare tre cose insieme, i cinepanettoni sono molto più lenti adesso di quanto non fossero quando il genere è cominciato. E poi mancano di cattiveria, se soltanto uno va a guardarsi un film di Dino Risi, per esempio, o certi personaggi di Sordi, trova che proprio la cattiveria è qualcosa di scomparso. In compenso c'è sempre una scena in cui un personaggio gira con le mutande calate alla ricerca di carta igienica. Lei, recensendo per il Foglio Natale in crociera di Neri Parenti con De Sica, ha citato uno scrittore americano, David Foster Wallace, che, mandato in crociera per fare un reportage, scrisse il titolo celebre era "Una cosa divertente che non farò mai più". Ecco, forse i cinepanettoni però sono anche un errore in cui si ricasca, forse anche a volte felicemente, perché il successo di pubblico è impressionante. Pubblico non si è stancato di questo prodotto cinedolciario. Un celebre editore che si chiamava Mencken, un celebre editore americano, disse che nessuno è mai diventato povero sottovalutando il gusto del pubblico. Ma veniamo a Venezia. In realtà, scorrendo i nomi anche poi degli ospiti, forse manca però una certa comicità contemporanea, forse quella un po' più di sinistra, un po' più impegnata, perché abbiamo Abbattantuono, Banfi, De Sica, Montesano, Pozzetto, Proietti, Verdone, Villaggio, ma non è prevista per ora la presenza di Benigni o anche Antonio Albanese. Mancuso, ci aiuti a capire se è solo una scelta cinefila o se secondo lei c'è anche una linea che qualche comico vuole marcare, segnare, dire sì, ma noi siamo dei comici alti, non veniamo quando ci sono i cinepanettoni, per esempio. È un cattivo pensiero, però insomma, in onore alla commedia di una volta cerchiamo di essere un po' cattivi. È un cattivissimo pensiero, credo che Benigni però abbia avuto i suoi onori cinematografici anche al di là del dovuto. Albanese invece no, Albanese è bravissimo, purtroppo, parlandone da critico, i film non erano riuscitissimi rispetto a certi sketch, ma non credo che sia stato per questo, credo che sia una questione proprio di anni che passano. La cosa buffa è che nessun festival al mondo mette mai in concorso, ma neanche fuori concorso, film comici o film popolari, si cercano sempre gli Antonioni, poi 20 anni dopo, 30 anni dopo si ripescano i film che erano stati esclusi e a volte anche massacranti dalla critica e si mettono nelle retrospettive. E quindi così per un direttore di festival, secondo me, sarebbe ora di porsi il problema: perché le cose cacciate via prima arrivano dopo con tutti gli onori? Qualcuno ha sbagliato, o prima o dopo, forse qualcuno ha sbagliato, insomma. Qualcuno ha sbagliato, secondo me si sbaglia un pochino dopo, perché negli altri paesi i comici sono tenuti in grande onore. In Italia no, si pensa sempre che fare ridere sia facile, sia una cosa così alla portata di tutti. Quasi fare il solletico. Lei è una grande fan esegeta di Sacha Baron Cohen. Ecco, in Italia qualcuno secondo lei può avvicinarsi a quel tipo di comicità imprevedibile e sicuramente originale e non stancante? C'è qualche nome che in Italia può essere uno. Ce n'è uno, si chiama Checco Zalone. Il suo film Cado dalle nubi, secondo me, era un bellissimo film, era un film anche piuttosto cattivo, a differenza di altri, è un film che poi il pubblico ha amato molto, pochi critici hanno visto e quelli che l'hanno visto non hanno neanche troppo riso. Secondo me è un film che fa ridere dall'inizio alla fine, con le sue tenerezze, con le sue cattiverie. Credo che Checco Zalone sia la cosa che più si avvicina in Italia a Sacha Baron Cohen. Senta, se non sbaglio però non c'è Zalone in Laguna, mi corregga se sbaglio, Mancuso. Troppo nuovo. Però forse proprio manchiamo diciamo con il nuovo talento proprio quando si vorrebbe rilanciare un genere. Forse è un peccato in questo senso, ecco. Ma io credo assolutamente di sì. Non credo che ci sia un direttore di festival così coraggioso da invitare l'ultimo cinepanettone, però sono tutti pronti a omaggiare Christian De Sica, a omaggiare Diego Abbapantuono, che hanno fatto film eccellenti, ma che forse sono abbastanza, come dire, onorati, sono già stati premiati anche dal successo di pubblico. Quali sono questi film, così anche per gli ascoltatori rendiamo più chiaro sul discorso critico di Abbapantuono? Il vecchio eccezionale veramente è un bellissimo film, e così anche dei ruoli che Abbapantuono ebbe nei film di Fantozzi. Tra l'altro Paolo Villaggio... Il panettiere è indimenticabile. L'indimenticabile panettiere, certo. Ringraziamo Maria Rosa Mancusi di essere stata con noi a Time Out e buona Venezia. Grazie. Cine Panettoni in Laguna, ne parliamo con il direttore di CIAC e anche il direttore artistico del Festival di Roma, Piera De Tassis. Buongiorno. Buongiorno. Ma a bruciapelo, spesso tra Venezia e Roma dicevano che Roma era più pop, popolare, e invece Venezia era più snob. Beh, qui che è successo? Lei un cinepanettoni al Festival di Roma li avrebbe portati? No, non ancora. Comunque, sicuramente nella visione di Michael Muller era questo molto più snob, fare i cinepanettoni. Poi Aldo Grasso direbbe che è arrivato un po' in ritardo e che basta con la rivalutazione. E da un numero di luglio di CIAC, uno speciale sul box office, che ha avuto in anteprima la rivista diretta da Piera De Tassis, c'erano però dei dati molto interessanti. Cioè per il 2009-2010 il cinepanettone insomma non l'ha fatta da padrona come sempre, perché sono arrivati i 3D, i Colossal. Ecco, quindi è un po' curioso però che venga sdoganato appunto in chiave radical chic, forse nell'anno in cui segna una flessione che potrebbe anche essere di macro tendenza, visto che Pixar e altre grandi case di produzione puntano molto sull'animazione, sul 3D, sull'entertainment veramente di nuova generazione. Ma sì, ma più che, diciamo, più che il De Profundis per il cinepanettone, che non ne ha bisogno, sicuramente De Laurenti si inventerà qualche cos'altro. Cinepanettone pare... in 3D? Il cinepanettone in 3D? Sì, io immagino. Non è andato tanto lontano, secondo me, da quello che succederà. Però io penso che la rivalutazione, la riscoperta cinefilo chic, radical chic, come vogliamo, arriva proprio nel momento in cui un certo tipo di caffoneria è del tutto, si è già autosuicidata, non so se è suicidata, no, autosuicidata non si può dire, quella caffoneria che voleva rappresentare il cinepanettone, che voleva anche stigmatizzare, diciamo, raccontare da Cortina alla Sardegna, insomma arriva proprio adesso quando, diciamolo, i giornali, le cronache politiche, i giornali di gossip, il gossip che ormai si è allargato su tutto, è ben più importante, ben più forte, lo racconta molto meglio, la gente è quasi sazia, quindi per questo si dirige su un altro tipo di prodotto. Quella caffoneria in Sardegna c'è rimasto solo Briatore, tutti gli altri hanno finto di migrare verso lì di più. Ora appunto, si punterà su Monte Carlo, che dice a proposito di cronache politiche? No, ma forte dei marmi, ho visto, forte dei marmi, Ansedonio e quelle cose lì già più periferate. Si punterà su Monte Carlo, sì, su Monte Carlo SPQR per le storie, una... per i racconti, certo. Monte Carlo diventerà sicuramente... Il cinepanettone era fantastico come momento di pausa e di stupidera, ma anche, diciamo, come momento di analisi così di costume, fin quando, secondo me, aveva proprio quell'impostazione estremista da farsa, no? Però aveva quella vena così, più che era proprio poi il contrasto nord-sud, il cipollino col cipollino, per dire Boldi, con De Sica, e quei trailer che tutti ricordiamo, da Natale sul Nilo, Natale in India, anche i peggiori, diciamo, Merry Christmas. Adesso si è un po' normalizzato, consiglierei di smettere di andare in posti così, in metropoli dove qualsiasi turista arriva, e di cercare troppo la strada della commedia leggera e un po' elegante, perché forse non è la strada del cinepanettone. Ci aspettiamo a questo punto un cinepanettone in 3D, ci aspettiamo storie ambientate a Monte Carlo, e soprattutto abbiamo capito che forse il vecchio cinepanettone è morto proprio ora che lo si celebra alla Laguna, e quindi dovrà reinventarsi, quindi... Morto il re, vive il re. Grazie a Piera De Tassis, sei stata con noi. Grazie a voi, ciao. Cinepanettone sì, cinepanettone no. Tiriamo le somme del nostro time out che sta per finire. Sicuramente con questo sdoganamento in laguna del Cinepanettone, se vorremo andare a Natale a vederci chissà Crociera Monte Carlo, che quest'anno spunterà fuori, ci sentiremo meno in colpa perché sono stati consacrati i cinepanettoni anche alla laguna di Venezia, ma allo stesso tempo forse gli attori e soprattutto i produttori che si lamentavano sempre facendo le vittime dei critici snob, beh adesso non potranno più lamentarsi, e se non ci piacerà il cinepanettone, se del cinepanettone ci piaceranno soprattutto i popcorn, beh lasciatecelo dire. Time Out finisce qui. Ringrazio Valerio Rocchetti in regia, vi ricordo che Time Out è l'appuntamento del sabato e la domenica alle 9:30 su Radio 24.